Europa 24. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli, dunque Europa 24, che oggi ovviamente in una versione, diciamo, imprevista, imprevedibile, come erano, e l'abbiamo sentito anche nelle testimonianze di questa mattina, gli attentati proprio nel cuore delle istituzioni europee, dunque a Zaventem da una parte e anche a Rue de la Loi nella metropolitana, dove peraltro appunto sarebbe il maggior numero di vittime, metropolitana che porta, che si ferma, che si era fermata poco prima nella stazione Schuman, quindi quella del Parlamento europeo e la Commissione. Ovviamente molteplici le reazioni in una città blindata, e una delle reazioni che vi facciamo sentire, la sentite in audio in sottofondo, è quella di Federica Mogherini. In not only suffering our victims but also reacting to these acts and preventing radicalization and violence together. I will stop here, you will understand this. Today is a difficult day. Today is a difficult day. Federica Mogherini era ad Amman in Giordania, ha dunque parlato di radicalismo e di come appunto l'Europa, assieme alle nazioni amiche, alleate, tra cui la Giordania, debba fare tutto il possibile per fermare la radicalizzazione. L'Europa e la sua capitale, ha detto, stanno soffrendo lo stesso dolore che le regioni del Medio Oriente hanno conosciuto e conoscono ogni giorno. È abbastanza chiaro, ha aggiunto Federica Mogherini, alto rappresentante della politica estera europea, dicevo, è abbastanza chiaro che le radici del terrorismo sono le stesse. Siamo uniti non solo nel cordoglio per le vittime, ma anche nella reazione a questi atti di estremismo e violenza. A quel punto poi si è commossa, il ministro degli esteri giordano Nasser Jodele ha messo un braccio intorno alle spalle, insomma ha accompagnato Federica Mogherini in un'altra stanza, un pianto forse di tensione, di rabbia anche nel vedere naturalmente le immagini che, e le voci che abbiamo condiviso in questa giornata di, scusate, di violenza terrorista appunto sui civili inermi. Con questa notizia, con questo audio, si conclude questa brevissima edizione. Vi ricordo però che continua invece lo speciale di Radio 24 sugli attacchi appunto terroristici a Bruxelles. La linea va ad Anna Rita D'Ambrosio allo speciale. A più tardi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.